Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. La bufala in tavola di Nicoletta Carbone. Ecco qui che la pancetta va via, la coscia si assottiglia, la chiappetta ritorna soda. Io ho preso proprio quello che tu dici. In cucina non bisogna mai aver paura di sbagliare, se si sbaglia chi se ne fude. Eccomi qua, buona domenica! Allora, riprendiamo le nostre tavolate domenicali e per entrare nell'atmosfera vi abbiamo fatto ascoltare il diario sonoro delle precedenti puntate. A proposito di tavolate, come sono andate le vostre? Certamente distanziate, ma cosa avete mangiato di più, di buono, di diverso? Qual è il piatto, il sapore, il profumo che vi portate con voi da quest'estate? Scrivetecelo, raccontatelo. I nostri social, la nostra pagina Facebook e Twitter sono come sempre a vostra disposizione. Intanto, amiche e amici cari, per iniziare la stagione, come si dice, con il botto, ho chiamato un amico speciale della Bufala in Tavola, un amico che è anche un fan delle nostre tavolate. Bene, seduto virtualmente, ahimè, solo virtualmente, a tavola con noi c'è Marco Bianchi. Marco! Buongiorno, tesoro! Come andiamo? Va bene, va bene. Un po' d'artificio quindi. Ma sì! Ma allora, che meraviglia! Chi non guarda. Conosce Marco Bianchi? Divulgatore scientifico della Fondazione Umberto Veronesi, food mentor sul web, in tv e ora più che mai in libreria. Dicevo Marco, direi soprattutto in libreria perché è fresco, fresco e ancora devo dire ancora di più, fresco. Ancora da scartare, ancora caldo da stampa. C'è guarda. Il tuo nuovo libro. La nostra salute a tavola, guarda, è un libro che secondo me, guarda, ti rubo veramente qualche secondo per dire che è nato un po' durante il lockdown con questa voglia ed esigenza di raccontare la dieta mediterranea, sfatando anche magari i falsi miti, quindi un po' appunto raccontando le famose anche bufale a tavola. Bravo, ci siamo. Sei al posto giusto perché sai bene che durante il lockdown c'erano carrelli strapieni anche di ciò che magari non serviva per nutrirsi, perché mangiare e nutrirsi sono due cose diverse. Infatti noi alla bufala in tavola, Marco, diciamo mangiamo bene per nutrirci meglio. Esatto, ma è quello, è, cioè, dovrebbe essere un po' un mantra per tutti, perché è da lì che poi parte la prevenzione. E poi fino a qualche anno fa era una prevenzione oncologica, adesso è cardiovascolare, è quotidiana, quindi impegniamoci a far questo, perché può essere molto gustoso. Gustosissimo, perché il libro è composto da 70 ricette, dico 70. Esatto. Proprio delle ricette diciamo da fare tutti i giorni, ecco. Diciamo la verità, sono semplici e tranne tre che le ho semplicemente rivisitate migliorandole, ed erano dei cavalli di battaglia, insomma, in qualche modo, quindi non potevano mancare. E il resto sono tutte ricette nuove, nuovissime, che ovviamente per fotografarle e non solo, insomma, ho dovuto prepararle e mangiarle. Cioè, e mangiarle. Sono sicuro che sono veramente buone. Allora, restate con noi perché naturalmente Marco Bianchi ci regalerà qualcuna di queste ricette, ci darà qualche spunto, qualche spuntino. Marco, allacciamoci il grembiule, come dici tu, e partiamo un po' scoprire questo libro senza ovviamente svelare troppo. Allora, prima tappa, direi, se sei d'accordo, ma conduci tu il gioco, è la piramide alimentare che troviamo all'inizio all'inizio del libro. Sì. Che tutti parlano della piramide alimentare, no? Che rappresenta bene, esatto, naturalmente un po' quello che noi dovremmo portare a tavola, però insomma è forse meglio ripassarla e anche un po' commentarla. Che dici, Marco? Sono d'accordissimo. E poi alla base tu metti dei concetti chiave, anche naturalmente qui alla Bufala in Tavola: attività fisica, convivialità, stagionalità, esatto, e prodotti locali. Esatto, guarda, è quello che un po' dicevi anche te all'inizio, nel senso che queste tavolate di questo periodo, anche questi ritrovi, anche distanziati, ci sono, e la convivialità è qualcosa a cui non possiamo fare a meno. Aiuta veramente a mangiare con più gusto ciò che andiamo a cucinare, quindi cerchiamo il più possibile veramente, anche poche volte, mica per forza tutti i giorni, ma di fare in compagnia, cioè di farlo in compagnia, di sederci a tavola con qualcuno. E questo ti aiuta anche poi a risalire la nostra piramide con gusto, anche perché le cose sono cambiate nel corso degli anni. Guarda che 20 anni fa si pensava ad esempio che alla base di tutto devono esserci le proteine, ad esempio, ma pian piano abbiamo capito che alla base di tutto devono esserci i carboidrati, la frutta, la verdura, il mondo appunto del vegetale alla fine, che poi è un po' tutto quello che stiamo un po' raccontando anche come linee guida internazionali per la prevenzione. Quindi è una piramide alimentare che dovrebbe essere nella nostra testa, ma soprattutto nel nostro carrello quando facciamo la spesa, questa cosa. Ecco, tu mi dici una cosa molto importante, cioè nella nostra testa e nel nostro carrello. Poi quando andiamo a fare la spesa è un po' come silenziamo un po' la testa. Hai un trucchetto per trasferire quello che abbiamo in testa nel nostro anche carrello e quindi lasciarci, guarda, guidare da quello che sappiamo per prendere le cose dagli scaffali, dai banconi? Secondo me è tutta una questione di allenamento, un po' come andare in bicicletta o tutto quello che ci viene magari poi automatico nel corso della vita. Il mio consiglio personale è quello di creare nella nostra testa un'idea, anche vaga, però di menù settimanali o comunque di quello che vorremmo mangiare, in modo tale che ci concentriamo nella spesa in quel tipo di acquisto. Per dire, quando faccio la spesa io compro sempre 4-5 tipi di cereali diversi. Poi sicuramente inventerò qualcosa, e se in quella settimana per caso non uso il riso nero, vabbè, pazienza, resta lì, non è che va male, certo, e la settimana dopo lo cucinerò. Quindi io parto sempre con pasta integrale, riso integrale, un riso rosso, un riso nero, della quinoa, un farro, e poi il farro servirà magari per fare un'insalata a freddo, magari però anche una zuppa. E certo. Quindi a sua volta devi anche pensare un po' magari alle possibili combinazioni. Dei funghi secchi o dei funghi surgelati in casa dovremmo sempre averli. E poi senti Marco, e poi io, guarda, ormai non l'abbandono più da quando tu me l'hai suggerita. Cos'è? La cipolla? E certo, essiccata. Essiccata. Questo è, guarda, un segreto è di un Marco grande aiuto, un grande aiuto, tra poco vi spieghiamo perché. Intanto che sfogliamo, senza anticipare troppo, il libro di Marco Bianco, La nostra salute a tavola, quello che noi diciamo ogni domenica alla Bufala in Tavola. A tra poco. Un condensato di felicità e di buon umore. Una volta era una rottura pazzesca. Off Topics è quello che fa per voi. Ragazzi, se lo dice Mastrota. Torno Off Topic ogni sabato alle 21 e su tutte le piattaforme social. Sì, vabbè, sarà pure Mastrota, però ha sbagliato il nome, ha detto Off Topics. Stai zitto che non se ne accorge nessuno. I cantanti Ghali e Mahmood, le scrittrici Jaba Shego, Sumai Abdelkader, ma anche l'infermiere Javier Chunga e la dottoressa Samar Siniab, morti di Covid mentre curavano i loro pazienti in Italia. Queste e altre sono le storie dei nuovi italiani. Sono Valentina Furlanetto. Vi aspetto con I figli di Enea dal 6 settembre, la domenica alle 14, naturalmente qui su Radio 24. Bufala in tavola. Buona domenica, passate a casa ad aspettare. Anche il telefono non squilla più, il tuo ragazzo ha preso il volo. Buona domenica. Buonissima buonissima, buonissima domenica. La bufala in tavola è tornata e torna alla grande con Marco Bianchi, che è qui per augurarvi una domenica speciale. Marco! Buongiorno, eccoci, domenica molto speciale direi. Specialissima, ma prima di andare a leggere un po' qua e là il libro e poi naturalmente Marco ha da suggerirci il menù di questa domenica prendendo spunto dalle tante ricette che ha raccolto in La Nostra Salute a Tavola, ci siamo lasciati sulla cipolla essiccata, segreto che vogliamo condividere con le amiche e gli amici più stretti. Ma intanto diciamo che spesso abbiamo paura di ciò che non è vivo, non so come dire, quindi la cipolla per forza da tagliare, l'origano per forza fresco o il basilico, ecco, anche ciò che è essiccato, cioè disidratato, gli viene tolta l'acqua, è importante per la nostra salute perché concentra migliaia di volte i suoi elementi all'interno. Nel nostro caso la cipolla, ad esempio, è ricchissima di calcio, consumata in questo modo, in più concentra i suoi zuccheri, quindi conferirà al nostro piatto una dolcezza particolare, non ci farà piangere e tendenzialmente tende anche poi a sciogliersi, quindi resta veramente un sapore molto più omogeneo nei nostri, in ogni pietanza, che sia un secondo piatto ma anche una zuppa, quindi un buon primo piatto. Quindi sia la cipolla essiccata veramente non può mancare in cucina. Ecco, allora ci facciamo amici della cipolla essiccata. Io la provo da tempo, da quando Marco me l'ha suggerito, pensavo che fosse proprio un segreto solo tra me e te, ma l'abbiamo condiviso come si fa con nelle belle tavolate. Amici, brava, tavola, certo. Si deve condividere, chiacchierare, dire un po', insomma, che cosa faccio? Dare i trucchetti, bravo. Sennò, che cosa faccio? Cosa mangio quando? Ad esempio, ad esempio, tu scrivi nel tuo libro quando ho bisogno di energie, e tutti noi ne abbiamo bisogno, certo, anche certo. E soprattutto direi in questo periodo, dopo le vacanze noi siamo carichi, ma poi quando ci mettiamo alla prova ci sentiamo già un pochino svuotati, vero. Sarà un po' lo stress eccetera, ma tu scrivi quando ho bisogno di energie porti in tavola un piatto di spaghetti integrali con pomodoro fresco, voilà, semplice. Guarda, semplice. Sì, ma un po' perché nella semplicità veramente secondo me abbiamo i sapori e i gusti migliori in generale, cioè inutile, un po' come quando sei a qualche ristorante e trovi mille ingredienti in un piatto, ecco, cerchiamo sempre piatti essenziali dove davvero possiamo gustarci al meglio la pietanza stessa e l'ingrediente stesso. Anche una pasta al pomodoro, per farla ci vuole comunque intanto amore, sempre quello in cucina, e poi gli ingredienti giusti, la buona qualità, quindi questo è in primis. È vero. Inoltre i carboidrati ci regalano veramente energia, ma quella buona, quella sana. Ricordiamo che il carboidrato non fa ingrassare, cioè vi prego, il carboidrato non fa ingrassare, va consumato ovviamente in base alle nostre esigenze energetiche, certo. Quindi siamo dei calciatori o facciamo una maratona, abbiamo una vita molto attiva, è ovvio che anche i famosi 80 grammi possono diventare anche 150, però starà a noi capire appunto, o il nostro medico nutrizionista, insomma capire le quantità in base alle esigenze, ma la pasta non fa ingrassare, anche alla sera soprattutto, viene digerita maggiormente e dormiremo meglio. Inoltre, è antistress, vero Marco? Esatto, perché poi contiene anche triptofano, tutti i cereali integrali, quindi ci aiutano a riposare bene, a essere un po' più sorridenti, quindi sì alla pasta. Sì alla pasta. Il modo migliore è proprio col pomodoro, guarda, è un po' il mio comfort food, il pomodoro, in tutte le sue salse, nel vero senso della parola. E poi ha un nome come tavola. Così bello, pomodoro. Sì. Ecco. È fantastico, guarda. Vero? È tutto lì. A te piace la pasta al pomodoro? Molto, molto. Ah, sono d'accordo. Aggiungo olio extravergine d'oliva. Sì. Io... Ma è essenziale, eh? Basilico. Perché assimiliamo tutti i nostri carotenoidi, eh? L'effetto del licopene funziona se abbiamo l'olio, eh? Quindi è fondamentale. Vedi? No, quei piatti sciapi che non hanno condimento, serve il condimento, attenzione, mi raccomando a tutti. Quindi qua... pasta, ma nel tuo libro naturalmente suggerisci cereali in genere e cereali integrali. Sì, questo perché sai bene che quanto le fibre ci sono amiche, Ci sono amiche per una questione di intestino regolare, ma non solo. Oggigiorno le fibre aiutano anche a stimolare quelle cellule che nel nostro intestino producono poi anticorpi, certo, quindi la risposta immunitaria, proprio per farla in soldoni. Quindi ecco, sia le fibre, sì, e ovviamente quando non sono nei cereali le sfruttiamo in frutta, verdura, frutta secca, legumi. Però ecco, non dobbiamo essere talebani in una scelta drastica sull'integrale o meno, ma scegliamo comunque di introdurle nella nostra giornata. Mescolati magari alle verdure, ne abbiamo parlato in apertura. Ecco, certo, verdure, questa è una stagione ricchissima, non abbiamo che l'imbarazzo della scelta, colori da abbinare, sì, per appagare anche l'occhio, perché un piatto bello colorato è più invitante. Esatto. Quindi peperoni, melanzane, pomodori, zucchine, fagiolini. Che cosa hai preparato tu tra le tue ricette? Un piatto ricco di verdure che abbina le verdure ai cereali. Che cosa ci prepari di buono? Allora, guarda, a me intanto piace tanto come suggerimento, il più possibile, se riusciamo ad andare anche nei nostri mercati di zona. Con tutte ovviamente le precauzioni del caso, però quando possiamo osservare direttamente il mondo vegetale, il mondo della verdura in questo tipo di posti, ci regala sicuramente una marcia in più, per mille motivi, un po' dalla provenienza, un po' per la varietà, quindi riusciamo sicuramente ad attingere di più, e parlare con chi ci rivende ci può regalare delle informazioni che sono fondamentali. È vero, spuntano anche al mercato alcune ricettine. Esatto, vero? Ma molto spesso, sì, guarda, al bancone nascono veramente mille cose, mille opportunità, insomma. Amicizie, ricette, sì, segreti. Sì. Guarda, bello. Abbiamo parlato di pomodori e intanto voglio subito lanciarvi questa teglia di datterini confì e feta, che è molto molto buona. Dimmi, come si fa? No, è semplicissimo, devi tagliare i pomodorini a metà, io di solito scelgo quelli più dolci, i datterini, sì, li metti in teglia, con la parte diciamo tagliata verso l'alto, metti un pochino, ma veramente un mezzo cucchiaino di zucchero su tutta la superficie, per sì, bene, inforni insieme nella stessa teglia a della feta che taglia a cubetti per 30 minuti circa a 170 gradi. I pomodori perderanno la loro cottura, diventeranno ancora più dolci e sarà un piatto spaziale, guarda, veramente molto molto buono. Spaziale, guarda Laura Vanossi che è di là dal vetro, perché è in assistenza oltre che in redazione, ha detto sì, lo faccio questo, perché io no, non so perché, veloci, ma le ricette di Marco Bianchi sono così invitanti, perché sono semplici, colorate, buone, che uno dice, sì, tutto qui, lo faccio. Hai parlato di colore, l'humus di carote, provalo per favore, perché devi semplicemente frullare delle carote lessate insieme ai ceci lessati, succo di limone, la solita tahin che si utilizza appunto per la crema di sesamo, e olio extravergine d'oliva. Frullato insieme diventa un humus che è il paradiso, e lo puoi abbinare benissimo a delle chips di patate viola, agli aromi che tu tagli finemente e poi anche loro in forno. Che mentre bontà! Cuociono anche i datterini, hai tutto un piatto praticamente che si può riempire come non mai. Tra e in l'altro, questo periodo che arriviamo anche a frutta e verdura coloratissima e buonissima, una boule di mela verde, finocchio, mela grana e noci. È una bomba, guarda. È un insalatore, diciamocelo, però va di moda dire boule, quindi anche io ho voluto riportarla. Guarda, infatti te lo stavo dicendo, ho detto, ma come siamo chic, una boule. Nascono sì, ristoranti di sole boule, quindi approfittiamo anche noi. Brava, buliamo anche noi. Senti, mi hai parlato di ceci, mi viene subito sì, in mente, legumi, proteine vegetali. Apriamo il grande capitolo delle proteine, vegetali sì, e animali. Ci sono certo, tanti luoghi comuni, tante un po', no? C'è poca chiarezza, quale scegliere, perché, come abbinarle. Marco? Allora, sì, proteine, dobbiamo imparare ad equilibrarle, cioè ecco, portarle in tavola in modo equilibrato, cioè armonico. Alterniamole, perché le proteine sono buone tutte e sono buone nelle giuste quantità. Questo vuol dire che in ogni piatto una piccola parte proteica deve sempre esserci. L'importante è non esagerare, perché oggigiorno le proteine abbiamo scoperto che soprattutto nella tenera età, nei primi 3 anni di vita, possono dare delle informazioni sbagliate poi all'organismo in crescita, ovvero informazioni di pre-obesità, quindi anticipano una sorta di forma di obesità che poi potrebbe comparire in età poi un pochino più adulta. Quindi attenzione alle proteine, questo non vuol dire avere l'angoscia del grammo in più o il grammo in meno, ma insomma la dieta iperproteica in un bambino anche no, ecco, fondamentalmente. Ma anche in un adulto, ma come ci organizziamo? Non dobbiamo fare a meno di quelle che sono uova, formaggi, il nostro buon pesce azzurro locale, nazionale, di cui dovremmo essere proprio bravi a portare in tavola, e i legumi, perché sono alla base della nostra piramide alimentare, della nostra dieta mediterranea. E i legumi ne abbiamo tantissimi. Uno più buono dell'altro. Tu ci hai dato subito quella ricettina squisita, che carote, ceci per frullati, è subito pronta, è subito buona ed è anche ricca. Quale altro legume ci suggerisci? Magari un legume che ha delle particolarità, delle peculiarità che ci aiutano soprattutto in questo periodo dell'anno? Guarda, sicuramente la lenticchia rossa decorticata, perché è facilmente digeribile. Si cuoce in un attimo solo a guardarla, praticamente, non ha bisogno di ammollo. La guardi e è cotta. Ma sì, praticamente sì, guarda, quindi adatta a tutti, ai bambini, agli anziani, ai più giovani, insomma, e soprattutto è tollerata da tutti. E lei stessa, insomma, cotta, spadellata con del curry e delle erbe aromatiche, come appunto poi suggerisco anche nel libro, diventa un piatto veramente gustosissimo. Un po' diluita, una bella zuppa. Magari a cui aggiungiamo un cereale, così completiamo il piatto unico. Invece un po' ristretta, quindi cotte, ma un po' ristrette, e magari aromatizzate con un po' di zenzero, che non guasta mai, su un crostone di pane diventa una bruschetta fantastica. Nicoletta, per capire come tante cose possono anche essere preparate magari in eccesso, poi congelate e ritirate fuori e con un altro abito. Quindi se la consumiamo come zuppa, il giorno dopo 2 giorni, 3 giorni, quando vogliamo, può diventare davvero la nostra mousse per un crostone in compagnia. Oppure la possiamo anche mettere in una boule di insalata. Vedi? Trasformandola in una crocchetta, perché gli aggiungiamo dentro un po' di pecorino e un pochino di pan grattato, prende quella giusta consistenza per poterla lavorare e trasformare in una crocchetta. Senti, regalami un suggerimento per far mangiare ai bambini la frutta. Oh, guarda, io nel libro mi do tante cose buone per poter mangiare la frutta, perché secondo me dobbiamo essere, intanto essere i primi noi a coinvolgere i bambini nel consumo della frutta stessa. Ecco, quindi, poi tu la mescoli molto anche alle verdure, questo è un bellissimo trucchetto. Sì, assolutamente. Però ecco, una cosa carina che anche mia figlia Viviana è impazzita è l'uovo al mango. Ve lo do nel libro verso la metà, fine, insomma. È una ricetta particolare, perché non è altro che un frullato di banana, quindi bello bianco, con un po' di yogurt o di latte, qua si può scegliere, e viene servito in un piatto e al centro viene depositata una cucchiaiata di un frullato di mango. Quindi tu avrai questo effetto di uovo alla coque, ma uovo non è. I bambini, onestamente, quando assaggiano il primo cucchiaio si accorgono che non è uovo, poi banana, poi arriva il mango. Insomma, è un connubio perfetto di colore, sapore e pianta salute. Grazie Marco. Grazie. A prestissimo. Buona domenica. La nostra salute a tavola di Marco Bianchi. Noi ci fermiamo e ritorniamo subito tra poco. Intanto c'è Carmelo Lauricelli in la parte tecnica, Laura Vanossi, l'ho già nominata, è in assistenza, in redazione, insomma ovunque. Noi ci fermiamo perché spazio alle ricerche. Anche la ricerca ci suggerisce che cosa portare in tavola. A tra poco. Puoi tenere la velocità che vuoi, puoi fermarti quando vuoi, è pura libertà. E poi, mentre pedali, hai la possibilità di ritrovare la tua creatività. Mezzo silenzioso, pacifico. Secondo me la bici sarà quello che forse un giorno ci salverà. Si sente l'aria addosso, sembra un po' di volare. Libertà, benessere, ma anche viaggio, divertimento, mobilità, tecnologia e impresa. Sono tante le storie che ci racconta la bici e noi torniamo ad ascoltarle insieme a voi ogni domenica alle 16 su Radio 24. Sono Alessandra Schepisi, vi aspetto con la ruota libera all'interno di Passione Domenica. Ma è possibile che c'è? Le piroette della politica, le notizie che arrivano da ogni parte del mondo, la cronaca nera, la cronaca bianca, lo sport, gli spettacoli, io non ci capisco più niente. Ma come si fa a seguire tutto? Scusa, ma tu ascolti Effetto Notte? No. Ah, ecco, si capisce. Effetto Notte, di Roberta Giordano, dal lunedì al venerdì alle 21, su Radio 24. In modo che un giorno non potrete dire: io questa mica la sapevo. La bufala in tavola. Siamo tornati, accomodatevi, su che c'è posto? Allora apriamo il nostro spazio che vogliamo chiamare la ricerca a tavola. Le ultime ricerche commentate dai nostri esperti che ci suggeriscono le proprietà di alcuni alimenti. E partiamo con i cavoli, i broccoli e i cavoletti di Bruxelles. Uno studio appena pubblicato sul British Journal of Nutrition dimostra che il consumo di questi alimenti riduce il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari grazie a un'azione positiva sull'accumulo di calcio nella aorta. Dottor Zegovesi, buongiorno, è tornato buongiorno, il nostro buongiorno, medicuoco grazie. Quasi cuoco. Dottor Zegovesi, ci spiega che cosa dice esattamente questo studio e ce lo traduce in piattino? Studio importantissimo. Beh, noi peraltro alle trasmissioni abbiamo parlato tantissimo dei broccoli, cucinate broccoli anche durante il lockdown, quindi ci eravamo portati avanti, ma ben venga che la scienza dia anche un'informazione così specifica sulla salute del cuore. Sicuramente la vitamina K è una delle principali protagoniste, vitamina che di solito colleghiamo alla coagulazione del sangue, ma che in realtà ha un effetto specifico sull'elasticità delle arterie. Le arterie, se accumulano calcio, si calcificano, quindi diventano troppo rigide. La vitamina K aiuta a mantenerle elastiche. Vitamina K, attenzione, presentissima nei broccoli e in tutte le crocifere, ma presentissima in tutte le foglie verdi, quindi biete, spinaci e altre, radicchio verde, eccetera. La cosa più importante, secondo me, delle crocifere, quindi della famiglia dei cavoli, è però la superstar degli antiossidanti, che è il sulforafano, che è quella sostanza che dà quell'odore un po' fortino di puzzetta. Sulfureo. Ecco, la puzzetta di cavolo. Ma una puzzetta assolutamente benefica. Qual è la genialità del sulforafano? Che ha un effetto non semplicemente di supplemento alimentare, come può essere la vitamina K, ma ha un effetto di modifica dell'espressione genica delle cellule, quindi un effetto estremamente profondo. Modifica l'espressione genica di quei geni collegati all'infiammazione e all'ossidazione. Dottore Zegovesi, non sprechiamolo. Come si fa? Perché è un po' delicato. Insomma, bisogna saperli maneggiare i cavoli, vero? Sì, perché il cavolo ha questa, il produrre sulforafano, che è questa sostanza preziosissima, richiede una cottura molto attenta, perché l'enzima che produce il sulforafano, che è la mirosinasi, è un enzima che è sensibile al calore. Quindi o lo cuciniamo in maniera molto veloce, quindi che ne so, un broccolo fatto a cimettine piccole, saltato in padella velocemente che resta croccante, oppure cuciniamolo pure bollito, al vapore, come preferiamo, ma aggiungiamo alla fine un po' dell'enzima che il calore ha distrutto attraverso un pochino dello stesso broccolo crudo, piuttosto che mettendoci qualche foglia di rucola, che comunque è della famiglia del cavolo, piuttosto che un po' di senape in polvere, che pure è della famiglia del cavolo, o di cappero, che pure è della famiglia del cavolo. E quindi insaporiamolo, alla fine, nella tradizione mediterranea tutto quello che per tentativi ed errori da generazione è stato tramandato va esattamente in questa direzione. Miglioriamo il sapore, ma nel migliorare il sapore aumentiamo tantissimo la biodisponibilità del solforafano. Dottor Rizzegovesi, grazie. Il nostro medicuoco quasi cuoco che ci ha accompagnato per tutta l'estate, direttore del Centro Disturbi Alimentari all'Ospedale San Raffaele di Milano. Parto con l'invito. Viene a pranzo da noi domenica prossima? Quando c'è da mettersi a tavola, sempre volentieri. Voilà, allora è fatta. Ci si sente, ci si vede domenica prossima con il dottor Stefano Rizzegovesi. Grazie, buona domenica. A voi, arrivederci. E noi restiamo in famiglia, nella famiglia dei cavoli, ma attenzione, aggiungiamo anche le verdure fermentate. Perché? Perché cavoli e verdure fermentate sembrano dare una sorta di protezione nei confronti del Covid, quanto suggerisce uno studio pubblicato su Allergies. Fresco fresco direi di stampa. In linea con noi abbiamo il piacere di avere uno degli autori, il dottor Massimo Landi, pediatra e allergologo a Torino. Buongiorno dottore. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, dottore, ci spieghi bene. Sul cavolo sappiamo che la famiglia dei cavoli fa delle cose meravigliose. Ne abbiamo parlato proprio con il suo collega, dottor Rizzegovesi, qualche secondo fa. Però c'è anche di più. Oltre alla protezione cardiovascolare, i cavoli tirano fuori questo asso nella manica insieme alle verdure fermentate. Che cosa avete scoperto? Sì. Ma tutto nasce da un'evidenza che sono stati alcuni paesi con una mortalità più bassa rispetto ad altri per il Covid, per esempio l'Asia orientale, per esempio la Corea ha avuto un tasso inferiore, e uno dei fattori che si è evidenziato, loro per esempio il piatto nazionale, questo kimchi che è un piatto di verdure speziate molto, molto fermentate, ma anche stando banalmente in Europa, quindi per esempio nella Svizzera si è visto che la Svizzera italiana e la Svizzera francese avevano un indice di mortalità più alto rispetto alla Svizzera tedesca, che ha notoriamente un consumo più elevato di cavoli. In particolare si parla di cavolo cappuccio, adesso io non entro nel dettaglio della famiglia dei cavoli, però insomma io ne ho mangiato di insalata di cavolo cappuccio con speck, ne ho mangiate dei piattoni in Alto Adige, buonissima. E qui la molecola è il che viene proprio che è presente nei questo sulforafano, che ha un grande potere antiossidante sul famigerato recettore che tutti ormai hanno sentito parlare, no? dell'ACE2, che è il recettore del Covid, su cui il Covid riesce a fare tutti i danni nel nostro organismo, e quindi la produzione di sulforafano ha questa grande capacità antiossidante che va a proteggere e a ridurre questi danni. Chiaramente sono studi che andranno poi ancora rivisti e rifatti, certo, su grandi popolazioni. Bisogna considerare anche la velocità con cui sono stati comunque fatti, vista tutto sommato l'attualità della malattia, ecco. Un altro dato interessante, che è un paradosso e che però sembrerebbe suffragare questo aspetto delle verdure fermentate dei cavoli, si è visto che negli slum indiani di Mumbai c'era una mortalità inferiore rispetto a situazioni di analoga povertà e promiscuità tra le persone rispetto all'urbanizzazione povera degli Stati Uniti o dell'Inghilterra. Quindi questo è un dato, come dire, anche che va un po' a supportare questa teoria, considerato che l'India certamente le spezie sono le verdure fermentate speziate sono un pasto abituale. Ecco, certo, insomma. A proposito di pasto, dottor Landi, lei è un pediatra e quindi le faccio la domanda che le staranno facendo tutte le mamme che entrano in studio da lei. Ecco, iniziano le scuole, poi ci prepariamo ma così lentamente ad affrontare una stagione un po' come l'autunno, un pochino più fredda. Cosa possiamo far mangiare ai nostri bambini per farli crescere sani e forti? Che cosa non deve mancare? Che cosa possiamo aggiungere? Che cosa limitare? Ma insomma, i nostri bambini generalmente sono sempre già abbastanza sani e forti, il problema è proprio quello un po' del sovrappeso, ecco, che rimane io sempre... sapevo che lei sarebbe andato lì. Che rimane sempre il primo nemico, no? da combattere. Il sovrappeso e ovviamente l'obesità sono il nostro primo nemico, quindi non ci sono grandi novità da questo punto di vista, quindi soprattutto che cosa è importante limitare, quindi bisogna limitare l'uso di piatti pronti, gli spuntini, i dolciumi confezionati, le bevande zuccherate, gassate, e soprattutto bisogna sempre fare attenzione alle porzioni. Il problema sono le porzioni, cioè anche il piatto che il bambino gradisce e che vorrebbe mangiare sempre, va bene, però quel piatto ha una fine, cioè non è che viene dato in maniera illimitata, ma il problema sono proprio le quantità e conseguentemente le porzioni. Poi chiaramente, come sempre, le proteine nobili, quindi meglio la carne bianca della rossa, meglio il pesce, insomma, soprattutto il pesce azzurro, lo sgombro, le alici, abbiamo parlato di dieta mediterranea, insomma, con Marco Bianchi in apertura. Direi che la dieta mediterranea è perfetta per i nostri bambini. Sì, assolutamente. Dottor... E poi sempre un po' di attività fisica, che devo dire purtroppo, certamente nel periodo del Covid è una delle cose che inevitabilmente è stata limitata, quindi questo devo dire non ha giocato a favore degli stili di vita, ecco, questo è evidente. Speriamo che si possa riprendere a fare con una certa regolarità. Grazie dottor Landi per essere stato con noi. Le auguro una buona domenica. Grazie. Un bel buongiorno piatto di cavoli, un po' di verdure fermentate e voilà che si va. Grazie dottor Landi. E ancora, buona giornata. Allora noi ci fermiamo, riprendiamo con un ospite dolcissimo. Ciao, sono Enrico Pagliarini. Mi sto domandando come sarà il mondo fra 14 anni. E allora spostiamo in avanti l'orizzonte e vi presentiamo 2024 più 10 interviste sul futuro. Una nuova serie solo in podcast su radio24.it. La bufala in tavola. Io ho preso davvero una poltrona imperiale per l'amico che si aggiunge alla tavola della bufala in tavola. Gli diamo il posto d'onore perché abbiamo in linea con noi il maestro Knam. Ciao maestro! Buongiorno, cioccolatosi saluti a tutti! Oh, magnifico! Come sono felice! Ho detto prima puntata della bufala in tavola, dopo le vacanze. Dobbiamo fare proprio un'apertura con il botto, non potevi mancare. E vogliamo chiudere con te in dolcezza, perché insomma la domenica un dolce ci sta. Non solo domenica, ogni giorno ci sta un dolce. Ogni giorno. Senti, ma noi qua stiamo mangiando, chiacchierando, cerchiamo di, come si dice, mangiare bene per nutrirci meglio. Qual è il tuo menù della domenica? Che cosa si mangia a casa tua la domenica? Poi ci racconti, poi non voglio immaginare i dolci che arrivano su quella tavola. Ma che mangiate? A domenica mangiamo sempre in famiglia, poi io sono molto fortunato perché ho la suocera Teresa che cucina, così io lavo i piatti. Fa bene, ma che cucina la tua suocera? Lei, essendo veneziana, ovviamente è molto tradizione Venezia, per cui il sardine sour, i diversi risotti, il fegato alla veneziana, il coniglio alla veneziana, eccetera eccetera. Poi quando lei non c'è cucino io. E sono contenti e si accontentano oppure hanno qualcosa da dire? No, hanno mai niente da dire, assolutamente, perché io faccio i piatti molto semplici, mi piacciono, sono molto bravo, posso dire, a fare risotti. Poi mi piace molto il pesce, perché è un ottimo pesce insieme con una salsa di limone, per esempio, che è molto leggero. Poi a fianco un insalato oppure le verdure al vapore. E poi andiamo di... Sì. Se si vuole andare oltre, ovviamente l'osso bucco milanese non può mancare con la cremolata. Ma allora Milano, senti, no? Adesso che poi si può tornare in studio, prima o poi vieni e portaci un po' di queste squisitezze. Senti maestro, noi con te vorremmo parlare di dolce naturalmente, del nostro dolce della domenica, della prima domenica della bufala in tavola. Che cosa ci proponi per inaugurare questa stagione e quindi per portarci anche buono? Se si inizia bene, chi bene inizia a metà dell'opera? Allora, io farei una mousse Africa, che è una mousse cioccolato 70% di massa di cacao, con dentro un gelé di lamponi e tutto ricoperto di lamponi freschi. Wow, adesso guarda, già Carmelo dice vado, perché, e quindi rimango senza tecnico. Alla portata un po' di tutti o è un po' complicato prepararlo a casa? No, la mousse Africa ha solo due ingredienti, cioccolato e panna, perciò è molto semplice da preparare. Si devono fare solo due attenzioni: una alla temperatura del cioccolato e seconda alla montatura della panna. Il cioccolato deve avere una temperatura tra i 45 e i 50 gradi, mm-hmm, e la panna deve essere montata soltanto al 50%, deve essere non montata al massimo ma cremoso. Così, mescolando poi il cioccolato con la panna, con la frusta, si monta ancora la panna, si incopre ancora aria e avremo una mousse molto molto soffice. Guarda, chiudo gli occhi e la vedo, anche perché io l'ho assaggiata già. E poi se prendiamo dei tumbler, una sacca poche, e facciamo una stratificazione con questo mousse cioccolato, con i lamponi freschi e via così. Poi se ovviamente uno vuole anche mettere un pan di Spagna o un crumble, può farlo tranquillamente, ma anche solo così lamponi mousse cioccolato è veramente fantastico. Perfetta, essenziale, equilibrata, speciale. Senti, venerdì è ripartita la sfida di Bake Off su Real Time. Tu sei sempre coinvolto con il ruolo di giudice. Come sarà? Che cosa ti aspetti da questa edizione? Allora, Bake Off è sempre da 8 anni bellissimo, perché ogni volta cambia sia il tendone sia ovviamente anche i concorrenti. E devo dire, i concorrenti quest'anno sono molto molto interessanti, perché ognuno ha una storia da raccontare e devo dire mi sto divertendo come ogni anno, perché sono proprio già bravi loro. Sono dei quest'anno ancora sono di più bravi. Sì, sono molto bravi veramente. Poi ovviamente noi ogni anno aumentiamo un po' la lasticella, per cui se io guardo le ricette che abbiamo fatto 8 anni fa su oggi, ovviamente è cambiato tantissimo. Senti, hai naturalmente dei compagni di viaggio: Clelia D'Onofrio, Damiano Carrara e Xaba Dalla Zorza. Se tu dovessi abbinare un dolce a ciascuno di loro, che cosa sceglieresti? Allora, prima hai dimenticato una persona, perché la Benedetta Parodi che... Ma quella la lasciavo... No, non l'ho dimenticata. Quella le dava un po' il posto di reginetta. La vogliamo buttare insieme? Tutti insieme? Per non fare preferenze? No, allora c'è la Benedetta che è la regina. Ecco. Poi abbiamo ovviamente... la reginetta, la Clelia la regina, no? Sì. C'è la novizia che è appena arrivata, la Xaba, che sì, è per la prima volta che viene. Abbiamo il principe di Damiano. Allora io al principe Damiano do un tiramisù, perché lui va matto per il tiramisù. Sì. Alla Xaba una torta inglese, perché lei è molto molto English, come si molto dice. Molto British, molto elegante, molto British. Sì. Con un angel cake con una salsa di fragola e la panna semimontata poteva andare bene. La Clelia, che lei ama gli agrumi, una cassata siciliana piena di limoni, arance semicandito. E poi abbiamo la Benedetta, che lei ama cioccolato e zenzero. Lo farei una crostata di cacao con dentro la crema cioccolato fondente e zenzero semicandito, e al sottoscritto non può mancare la foresta nera, cioccolato, amarene e panna al kirsch e vaniglia Tahiti. Fantastico, li abbiamo tutti impacchettati, dolciati e impacchettati. Sì, ma tu l'hai solo sentito, quando si può ritornare in studio, se vuoi ti porto tutti questi dolci dedicati ai nostri personaggi, va bene? Sì, così poi lo mangiate anche voi. Dai, questo sì, ci piacerebbe molto. Senti, noi spesso suggeriamo alle mamme e ai papà che ci ascoltano di cucinare con i loro bambini. perché si chiacchiera e intanto i bambini imparano anche ad apprezzare di più quello che si porta in tavola. Tu lo fai con i tuoi bambini? Sì, io con i nostri bambini, mia moglie e io abbiamo due piccoli, sì. Ogni tanto mi preletto in cucina, a parte pasta, frolla, biscotti eccetera, abbiamo fatto diversi piatti. Uno soprattutto che piace tantissimo ai miei figli è un piatto giapponese che si chiama tonkatsu, che è un filetto normalmente di maiale, ma si può anche usare il vitello, viene impanato con pan panko, che è un pane grattugiato giapponese di bassa levatura, così non assorbe umidità e soprattutto l'olio, croccantissimo, che viene poi servito con questa salsa tonkatsu che è una base di soia e teriyaki. E insieme con l'insalata di cavolo cinese, buonissimo, perché rimane all'interno molto morbido, il filetto si scioglie in bocca e esternamente croccante. Certo che, insomma, volate alto. I bambini ovviamente voi... si sono divertiti soprattutto dal nome tonkatsu. Sì, ho immagino quando tu l'hai pronunciato, ho detto, pensa ai bambini. Sono risate veramente assurde. Questo è molto carino. Senti, vedi che alla fine chiudiamo con il cavolo. Il cavolo è stato un po' il protagonista di questa puntata, è sempre più studiato dai ricercatori che ne raccontano le meraviglie, adesso non solamente per il cuore, ma addirittura pensa che sembra che i cavoli insieme alle verdure fermentate, che sono un po' prodotti, no, che per te, a te familiari per tradizione, aiutino a proteggere dall'aggressione del Covid. Vedi che a tavola non si invecchia, ma anzi a tavola si protegge la salute. È così. I cavoli, compresi i broccoli e tutto, sono anche anticancerogeni. Per certo. È molto importante mangiarli. Bisogna inventare un dolce, ma tu l'avrai già fatto con il cavolo. E con cavolo fermentato abbiamo già fatto dei cioccolatini. Ecco. E funziona molto bene perché, come vengono fermentate con del sale, cioccolato sale. Benissimo, ovviamente con poi questo dolcezza retrogusto del cavolo è molto molto buono. Maestro, grazie per essere stato con noi, per averci onorato della tua presenza, per aver chiuso in bellezza la prima puntata della Bufala in Tavola dopo le vacanze estive. Un abbraccio grande, speriamo di vederci e di sentirci presto. Buona domenica anche a te, ai tuoi bambini e alla tua famiglia. E grazie mille. Alla suocera Teresa. Grazie e vi saluto con un cioccolatoso bacio per tutta la settimana. Grazie al maestro Knam, Carmelo Lauricella in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e in redazione. Vi do appuntamento come sempre domani dopo il GR delle 6 per iniziare insieme la settimana. Che bello! Buona domenica! Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.